Sono uno che piomba dalla luna. Sono 100 anni e forse un minuto. Non so per quanto tempo son caduto. Io stavo in quella palla color di zafferano. Vi indovino. Voi vorreste dalla mia bocca sapere com'è fatta la luna? Volete sapere come feci a salire? Io non rifeci lo stupido aquilone, non ho nulla imitato di quanto già si è fatto, ho inventato mezzi buoni di violare l'azzurro. Uno, ponendo nudo il corpo l'ho cosparso di fiale cristalline, ben colme delle lacrime delle albe mattutine, così stando la mia persona a bada, il sole la spirerebbe insieme alla rugiada. Due, potevo per prendere lo slancio far conserva di venti. Tre, potevo come un fuoco d'artificio farmi lanciare da una cavalletta d'acciaio, nei prati dove stanno gli astri a pascolare. Quattro, siccome il fumo ha tendenza a salire, raccoglierne quanto basta a tirarmi su e partire, ma non ho usato nessuno di questi modi. Quale? La marea. Nell'ora in cui le onde sono attratte dalla luna, mi misi sulla spiaggia dopo un bagno in mare, e prima cominciandosi la testa a sollevare, si sa che nei capelli più acqua si raccoglie, come un angelo salì fin del cielo alle soglie, e salivo senza aiuto. Le scarpe strette, lo sapevo, io non ho ancora preso la forma, e anche i pantaloni fasciano, questi fasciano, che diavolo di moda qui in città, però sto bene, mi sento... Sto bene, questi pantaloni mica prima mi sarebbero, perché fasciano, adesso ci voleva pure il vento, ecco, uno non fa in tempo a sistemarsi, che poi questo vento delle città chissà com'è, sarà che prende la rincorsa nelle strade, sono uscito troppo presto, che fa, oh, ma questa è fame, e quella è una rosticceria, chi lo sa, è una rosticceria, io chiedo, entro, ho fame, e chiedo. Ma quello che cos'è? Un lampadario? No, sono anatre appese, anatre, oche e pavoni bianchi, e sotto girasoli gialli, sembra una composizione. Si mangerà quella roba? Buongiorno, sì, grazie. No, prima di scegliere guardo, arrosti là dietro e lassù una saletta, un altro lampadario al centro della sala. Oh, ma quella è tutta selvaggina. Eh sì, e laggiù girano gli spiedi. Chi? Io? No, non di qua. Sono arrivato da un mese giusto. Domani entrerò barone Cristiano di Nevillette. Ma questi sono cuochi o camerieri? A guardarli si direbbe che abbiano cappelli d'animale. No, vado a teatro, prendo un pasticcetto e vado, è tardi. Via Sant'Onorè, via dell'Albero Secco. E questa la sala del Palazzo Borgogna? Signora, è questa la sala del Palazzo Borgogna? Signora, è una specie di tettoia per il gioco della palla, adattata ed abbellita per le rappresentazioni. Un quadrato e là le panche. Signora, lo spettacolo sarà lassù accanto ai posti dei violini? Signora... Oh, ecco, quello è il palchetto che ospiterà Rossana. Per fortuna ho mangiato il pasticcetto, ma quante candele ci stanno. Però, perché tenerle tutte spente? Ma dove si metterà tutta questa gente? Signora, ma quando li accendono sti lampadari? Ecco, beoni, spadaccini, baciatori. Abbiamo portato le cerbottane? Abbiamo anche i piselli, allora spariamo piselli con cerbottane. Che si darà stasera? Un tragedione. Barone di Nevillette, piacere mio, felicissimo. Diteci, Cristiano, da quanto siete qui in città? Un mese giusto. Domani entrerò. Dove entrerete? Nei cadetti di Guascogna. Sono io, sì, sono qua. Sì, eccomi qua. Sono Cristiano. Cristiano, a te, Cristiano. Rossana non verrà. Meneri, torna a bere. Non andate, se venisse, io non ho spirito, non oso ad accostarla. Mi turba il bel linguaggio che qui si scrive e che si parla. Io non sono che soldato, in amore mi confondo. Io me ne vado a bere. Restate, non posso, si muore di sete qua. Signore, avete visto Cyrano? E chi è Cyrano? Avanti, cristiano, non conoscete Cyrano? No, non lo conosco. Qualcuno ha visto Cyrano? Nessuno. È strano, perché è strano? Prese in odio l'attore di stasera e gli proibì di recitare per 30 giorni. Ma chi è questo Cyrano? Ma è l'essere maggiore, fisico, spadaccino rimatore, musicista, ha la faccia più strana che mai si sia vista, ha un naso, signori che gran naso, che gli sembra appoggiato, e uno guardandolo direbbe, ecco, adesso lo toglie, ma invece non lo toglie, lo porta sempre là, nel mezzo della faccia, guardate là, dove? Là, sul palco, in fondo, guardate com'è bella, ma chi? Che palco? Il palco, quello in fondo, è lei, la vedo bene, è Rossana, libera, orfanella, cugina di Cyrano, qualcuno l'ha visto Cyrano, non è venuto, speriamo non abbia letto il manifesto, silenzio, si comincia, oh, ma qua piovono i piselli. E quello anche stasera si è messo a recitare. Allora io... Ma quello è così gonfio che non può toccarsi l'ombelico, si crede irresistibile, e mentre l'impudico balbetta recitando da lassù, si consiglia con quegli occhi da rana di far l'occhio di triglia quella sera che mise gli occhi su di lei. Di vedermi sembrò un'immonda lumaca su d'un fiore strisciare, ma guarda quanto è gonfio. Però io gliel'avevo detto. Ti sei scordato che ti imposi il silenzio per un mese? Se aggiungi una parola te la ricaccio in gola. I marchesi mi facciano la finezza di tacere se non vogliono anche loro qualche carezza. E tu vattene se non vuoi che ti mozzi le orecchie. Ti sbudelli e ti scuoi. Ti sbudelli e ti scuoi. Tu, perché mi guardi il naso? Perché mi guardi il naso? È molle, cascante, come la proboscide di un elefante. È curvo come un becco di civetta. È un fenomeno abnorme. E perché non guardarlo, eh? Ti disgusta, ti fa pena, ti sembra di forma oscena. Di che mi accusi? Piccolo il mio naso. Allora enorme il mio naso. Sia chiaro. A chiunque dirà qualcosa sul mio naso, un calcio toccherà se è povero, ma se un signore non un calcio, la mia spada assaggerà. Che scandalo, che scandalo, dov'è lo scandalo, che scandalo? L'attore è protetto dal duca, e io no, non ho un protettore, no, no, no, per la terza volta, no, che devo fare? Cercarmi un protettore, eleggermi un signore. È come l'edera che al tronco lecca la scorza, arrampicarmi, invece di salire per forza, no! Grazie! Allora, che devo fare? Misurare le altrui scale, far continui prodigi di agilità dorsale, grazie, no, grazie, no, ma cantare, sognare sereno e libero, indipendente, avere l'occhio sicuro, la voce possente, mettermi quando piaccia il cappello di traverso per un sì, per un no, battermi o fare un verso. Poi se viene il trionfo, per fortuna o per arte, non dover darne a Cesare la più piccola parte. E disdegnando essere l'edera appassita, pur non la quercia essendo, il grantiglio forzuto, salire, anche non alto, ma salire senza aiuto. Salire, anche non alto, ma salire senza aiuto. Cyrano. Cyrano. Cyrano, devi smetterla di farti solo nemici. Io lo faccio con piacere. Ma con quell'attore perché? Perché? Cyrano. Perché? Perché è un vile. Ha una faccia ingloriosa, priva di slancio, di inventiva, di lirismo, di genio, di grandezza, di naso. Insomma. Una sera mise gli occhi su di lei. Cosa? Che ridi? Non lo credi possibile? Che anch'io possa amare? Chiamo? Cerca un po', vediamo. Questo mio maledetto naso che mi precede di un quarto d'ora mi vieta persino l'amore di una brutta. Chi dunque amo? Non ti par chiaro? Chi è la donna mia? Io amo, è naturale, la più bella che ci sia, cui ciascuna è seconda, la più fulgida, la più fine, la più bionda, una calamità squisita. E non lo sa. Adesso la cosa è chiara. Rossana. Dirglielo. Io. Ma guardami in faccia. Avanti, guardami in faccia. Che speranze ho con questo naso? Io non mi illudo, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Che piango. No, non piango. No, no, no, sarebbe troppo sconcio vedere una lacrima scendere per questo naso. Io farò finché possa che mai la bellezza delle lacrime con tanta grossolana sconcezza si confonda. Ma lei ti ha guardato prima, hai visto? Diglielo, ma per fare che? Per cosa? Perché? Per fare che mi rida sul naso? No. È la sola prova per cui non mi basta il coraggio. Ecco, c'è la sua governante. Ma dove? Là? Ma dove sta? Sta là? Ma dove? Sto qua. Signor Cirano, c'è qualcosa da dirvi. Mi si manda a chiedervi un convegno, un convegno. Io e Rossana, c'è qualcosa da dirvi, qualcosa da dirvi, qualcosa da dirvi. Domani si può, domani alle 7, domani vicino San Rocco, alla rosticceria. Ci saremo a domani. Lei chiede convegno a me? Uè, Cyrano, Cyrano. C'est moi. Le pennacchie. Le tue pennacchie. Le pennacchie del Luca Pell. N'americanush. Raspono, Cyrano. Rispondo, Cyrano. Cyrano. Rian, cus non parl. Non de fe troppe illusioni, sin da moi. Tu cred che la ragazza ha dato appuntamento per qua scedà. Non de fe illusioni. Che dall'illusione se cadro tolante Cyrano rian cus non bar mo appunto tu avec dit che ti non as non te lo scordar ca un as te preced non te lo dementecar ca si brot Cyrano stip bron abbiamo. Sono le 6, ma tra un'ora allora. Bravo Cyrano, di che? Del fatto d'armi. E niente, che ora abbiamo? 6:10. Che vi siete fatto alla mano? Niente, una graffiatura, un'avventura. Nessuna, che ora abbiamo? 6:15, nessuna avventura. Io credo che mentiate. Mi trema forse il naso? Non sembra da lontano. Che ora abbiamo? 6:20. E se non mi trema il naso, che menzogna. Che ora abbiamo? 6:30. Basta dirlo e passa il tempo. Che ora abbiamo? 6:40. E adesso è 50. È tardi. Datemi una penna. Che ora abbiamo? 7:05. Io vorrei... prima che con la parola ardire, mettere per iscritto, ma sì, scriviamola questa lettera 100 volte già scritta in me, 100 volte rifatta. Che ora abbiamo? 7:00. Se c'è un'ombra di speranza, le do la lettera. Rossana, eccomi. Sia l'istante, 3 volte benedetto, in cui ricordandovi di me venite qui per dirmi grazie per quel gaglioffo a cui fieramente deste scaccomato. E allora non per il mio naso, ma per i vostri occhi, per gli occhi vostri, mi son battuto. Volevo dirvi, però mi occorre, per quel che ho da dirvi, che io ritrovi il mio quasi fratello con cui scherzavo fanciulla nel parco. Io mi ricordo a Bergerac, voi venivate quasi ogni estate, mopedivate in tutto. E ditemi Cyrano, ero bella? Non eravate brutta, ma ditemi Rossana, quel che non m'avete ancora detto, adesso dico. Io sono innamorata, innamorata. Dunque tuttavia, ancora non lo sa di un povero giovane che m'adoro da sempre, timido, da lontano. E vedete il caso, nel reggimento stesso in cui voi servite, lui l'hanno messo. No scherzo, Cirano non scherzo. Brilla nel suo volto lo spirito eletto, scintilla di genio. È un uomo fiero, grazie, nobile, grazie, giovane, grazie, forte, grazie, bello. Bello? Sì, Cirano, che avete? Avete detto bello? Sì, sappiate però che finora non l'ho visto se non a teatro. Che avete, Cirano? Io? Niente. Io niente. E non vi siete parlati? Solo con gli occhi. È cadetto alle guardie. Si chiama Cristiano. Cristiano. Cristiano. No. Che c'è, Cirano? Niente, tutto bene. E se fosse Cirano, che avete? Io? Niente. E se è un profano, non lo sarà. E se fosse sciocco, io ne morrò. E mi deste convegno per dirmi ciò. Proteggetelo, io. Voi. Proteggetelo. Se tenete a questi miei occhi. Io proteggerlo. E dai, Cirano, accetta. Io proteggerlo. Da dove mi viene questa meraviglia? Io non mi illudo, no? È così difficile, Cirano. Se non accetti, lui come farà? Rossana, vi prego, accettate, Cirano, lo proteggerete. Io. Sì. Accetto. Non avrà nessun duello. Nessuno. E sarete l'amico suo. Grazie, Cirano. Io. Quanto v'amo, Cirano. Non sapete questo momento cosa sia per me. Io. Come un fratello v'amo. Ho capito. Ditegli che mi scriva. Adesso andate. Che mi scriva. Nande fillusion t'aveva detto. Cyrano, sta storia, moi, me sembra come de saperla già. Secondo moi, va a finire maluscio. Tu esiste pur rappresente la gente rotte, le brutte, l'homme incomplet, la femme violente. Tu rappresenti l'umanità che guarda la vie come se guarda all'inferno, la gente che non aveva diritto alla speranza, ma che si ostina a sperare de nascosto quando nessuno guarda. Aduas tu ne deve far de sangue amare. A me sembra de saper sta storia. Mole cristiane te deve sfotter, tu lo deve abbracciar e deve cascar nuova amante dentro l'illusione. E se prima se cade rotolant, aduas se cade con la fascia purtuar. Pourquoi toi, aduas domanderà le cristiane de far la conquista en doi, toi. E is, e si quella scelta do te port a tua cus comportament, e a me me sembra de saper già, me sembra d'avere già viste la stoar, ne bios però, come un sogno de nuit, si brot, si rano, Se questa è l'unica forza tua, così come la forza dell'uomo incomplesse e l'incompletesse, e la forza della fan violentese, l'ostinazione alla sopravvivenza, fai tua comunque, la vise la tua, e a me non me ne fotte, Cyrano più di tante, Cyrano e rien, cus non parle. Ma guarda quello che naso, è grandissimo. Signore, se avessi quel naso, signore, me lo farei tagliare. Quando bevete come fate col bicchiere? Non è che vi tenete un vaso adatto? Signore, a voi a cosa serve quell'affare? Amate tanto gli uccelli da dargli abbiglio sicuro. Quando starnutite i vicini si lamentano. Guarda che naso, perché non gli mettete un ombrellino? Signore, ma lì ci appendete il cappello. Signore, quel naso si può visitare. Oh! Chi sei? Barone Cristiano di Neville. E vieni qua. Vieni più qua. Vieni. Abbracciami. Sono suo fratello. Suo di lei. Oh, di Rossana, cugino, fraterno. Sì, mi ha parlato. Lieto di stringervi la mano. Lieto. E tutti quei nasi di prima. Rossana vuole questa sera una lettera. Una lettera? No, perché sono una bestia. Sono un moschettiere. Ma davanti alle donne sono buono a tacere. Rossana è preziosa, se solo io avessi un po' d'eloquenza. Non sai parlare, non hai eloquenza. Io te ne presterò. Ti sentiresti di ripetere a forza tutte le cose che io ti insegnerei? Ti sentiresti di ripetere a forza tutte le cose che io ti insegno? Oh, ti sentiresti? Rossana non sarà delusa, vogliamo fare insieme la conquista, vuoi? No, questo mi divertirebbe. È un esperimento da tentare un poeta. Al tuo fianco, nell'ombra, me ne starò. Tu sarai la mia bellezza e io sarò il tuo cuore. Ecco, prendi, questo è il biglietto. Metti l'indirizzo, non manca più niente. No, io ne ho sempre in tasca. Biglietti puramente ideali. Tu cambierai le mie finzioni in reali, sì. Calzerà come un guanto. Ehi, faremo insieme la conquista. Io so che mi ama e non ho paura. Io proverò a parlarle da solo. Grazie per il biglietto, ma proverò a parlarle da solo. Vuoi parlarle da solo? Solo, solo. Rossana è là, sei sicuro? Cristiano, siete voi? E aspettate, Cristiano, siamo soli, l'aria è dolce. Sediamoci, parlate, ecco, v'ascolto. Parlate, avanti. Oh, grazie per il biglietto. L'avete scritto voi. Parlate adesso. Va bene, questo è il tema. Adesso ricamate almeno. sta bene, poi? Ma Cristiano, io volevo della crema e voi mi offrite un brodetto. Dite come? Come mi amate? Ma insomma, Cristiano, districate, districate la traccia dei vostri sentimenti. Cristiano. Ancora. Sciocco, sciocco del tutto siete diventato e questo mi dispiace, come se diventaste brutto. Basta. No. Andate a ritrovare le parole eloquenti. Ho capito. Ho capito. Mi amate. Adesso vado. Com'è che sono gli uomini? Chi lo capisce è bravo. Qui nel biglietto mi par sopraffino, sentito parlare mi sembra un bambino. Due parole da dire quando è il momento, ecco, lo fanno sgomento. Io v'amo, si è messo a raccontare. E se gli chiedo di rivelare il suo sentimento più umano, quello mi ripete, io v'amo. Poi però scrive, più di cuor tu mi togli e io più ne ho. Ma nemmeno ci voglio pensare. Che ci fa quel banco sotto il mio balcone? Ci si può arrampicare un qualunque barbone. Un piede sul banco, le mani sulle foglie, mi ritrovo nel letto un satiro, un folle. Domani dovranno spostarlo, altrove dovranno portarlo. Poi si è permesso di darmi del tu. Ti amo, Rossana, di che mi ami anche tu. Ma nel biglietto scrive, se i baci si potessero mandare per iscritto, leggereste la mia lettera con le labbra. E poi addirittura, stretto al muro della mia premura, esce con quella frase al veleno di stringere nelle mani il tuo seno. Ma poi com'è possibile che da uno stesso cuore, per via della scrittura, venga un'aria pura e per via del chiacchierare un bambino ti par di incontrare? Finalmente la mia piazza e il mio lampione. Ecco il muro del giardino ed ecco il mio balcone. Cirano, aiutami. Eh no, muoio se non mi fai rientrare nelle sue grazie. No, Cristiano, no, no, no, aiutami, Cirano. Non dovevi. Come posso aiutarti adesso? Ma guarda là, la finestra di Rossana, si è illuminata. Aiutami, Cirano. Ah, la notte è nera. Ho visto, Cirano, la notte è nera. Che vuol dire? Mettiti là, incosciente, davanti al balcone, ingrato. Io mi nascondo qua sotto e ti suggerisco le parole da dirle. Tu suggerisci. Io sto qua nascosto. Suggerisco e tu ripeti. La notte è nera, non se ne accorgerà. Chiamala. Rossana, più forte. Rossana, chi mi chiama? Cristiano, a voi. Vorrei parlarvi. Parlate troppo male, andate via. Voi non mi amate più. Avanti, suggerisci. Che dite? Giusti numi. Accusarmi di non più amarvi. Quando più v'amo. Va già meglio, Cristiano, siete ancora voi. Perché parlate così lentamente? Vieni qua, Cristiano, togliti. Ma Cirano, se ti metti qua sotto, lei ti vedrà. La notte è nera, non mi vedrà. Nasconditi, Cristiano, lascia fare a me. Non voglio che sia tu a parlarle, Cirano. Vuoi tenerla a te? E allora lasciami parlare. Perché sono le vostre parole esitanti? E perché è notte? E adesso, cos'è successo alla vostra voce? Com'è cambiata? È il vento, che da freddo si è fatto caldo e la porterà voi più dolce. E perché prima parlavate così piano? Perché le mie parole cercavano nel buio il vostro orecchio, eppure le mie trovano presto la strada e si capisce. Ogni vostra parola qui dentro al cuore mi viene ora. Io ho grande il cuore, voi l'orecchio piccolo, e poi le vostre parole scendono, le mie salgono, il cammino è più lento, ma salgono assai meglio. Già da qualche momento hanno di questa ginnastica preso dimestichezza. No, Rossana, non scendete. Perché volete scendere? No, non posso nemmeno salire sul banco, no. Restiamo. Approfittiamo di questo caso che ci consente stasera di poterci parlare senza vederci, e sì, senza vederci. È così dolce. Il nero d'un mantello voi vedete, il bianco di una gonna vedo io. Io sono un'ombra, voi siete la luce. Restiamo così, non sapete quest'ora cosa sia per me. Mai le mie parole sono uscite dal mio cuore, perché finora parlavo attraverso, attraverso di che? E lasciamo stare, Rossana, questa sera io sento che per la prima volta vi parlerò. E sì, ho un'altra voce, ve ne siete accorta finalmente. E stasera davvero vorrei essere me stesso fino in fondo, perché il sospetto d'essere deriso ma sempre fermato. Se potessimo stasera, ma quante parole vi direi se potessi, quante me ne verrebbero al labbro così senza disporle. Io vi amo, son pazzo, t'amo, soffoco, non reggo più, tutto di voi io ricordo, tutto di voi ho amato. Io so che un giorno, il 12 di maggio l'anno scorso, voi cambiaste la forma dei capelli. Questo sentimento che mi invade terribile, geloso, violento, è certo amore, ma l'egoismo non ha no dell'amore. Stasera per me è troppo dolce, pure una volta. Io le parlo d'amore, io le parlo, e lei ascolta. I miei detti vi fanno tremare tra questi rami. Sono io, io che seppi darvi questa ebbrezza. Adesso non chiedo che una cosa: baciarti. Chi ha detto baciarti? Voi cristiano baciarti? No, Rossana. Sì, Rossana, ho chiesto, ma fui troppo audace. E sì, Rossana, insisto. Il bacio, questo vuole il bacio. Adesso io devo tenergli il bacio, ma perché? Perché devo tenere questo gioco fino in fondo? Adesso come rimango a guardarli questi due che si baciano? Una cosa è dire due parole, vederli che si tengono per mano, sapere che si cercano. Ma di notte fino ad ora Rossana sogna il suo viso e le mie parole. Un bacio però, come lo sopporto un bacio? E va bene, 100 con la spada li posso sopportare, ma un bacio no. Io non la sopporto la faccia di Rossana così vicina a quella di Cristiano, e la mia faccia a guardare altrove, nella luna, nelle stelle. Ma perché poi devo tenerglielo io il bacio? Ma almeno se la faccia da lui questa cosa del bacio. Ma poi che cos'è sto bacio? Chi l'ha dato mai sto bacio? Io non ne so niente, come gliene parlo? E sì, Rossana, parlavamo di un bacio, sì. Ne vedo in verità perché la vostra bocca sia così timorosa. Se la parola è dolce, che sarà mai la cosa? Che cos'è un bacio? E che cos'è? È un giuramento fatto un po' più da vicino. È un patto più preciso. È una confessione che si vuole sigillare. È un apostrofo rosa messo tra le parole t'amo. È un segreto retto sulla bocca. È un istante d'infinito. È un mezzo di potersi respirare un po' il cuore, di assaporarsi l'anima a fior di labbra. Io credo che debba essere così. Un bacio questo dovrebbe essere, così la penso io, ma non ci scommetterei, perché in fondo, Rossana, in fondo io, come dite? Posso. Posso venire a prendere questo bacio? Vai, Cristiano. Vatti a prendere questo bacio. E no! La notte di nozze è di là da venire. Io lancio con grazia il cappello, poi comodamente, piano, lentamente, mi libero del mantello che mi attabarra e la spada sguaino. Volteggio la mia punta, apro la via, chiudo lo sbocco, giusto alla fine della licenza io tocco, mi inquarto, paro, fingo. Le squadre già si pongono in marcia, la notte di nozze è di là da venire. Io lancio con grazia il cappello, poi comodamente, piano, lentamente, mi libero del mantello, chiudo lo sbocco, giusto alla fine della licenza, io tocco, mi inquarto, paro, fingo. Aver caro qualcuno e saperlo alla guerra. E quando? Presto. Parte anche Cristiano. E voi lo proteggerete. Cirano, a voi lo confido. Promettetemi che lo rivedrò. E che sarà molto prudente. Che mi sarà fedele. E Cirano, promettete che scriverà spesso. Ferito? Chi? Io? No, no, non mi hanno visto. No, nemmeno un graffio. Hanno preso l'impegno di mancarmi ogni volta. Per portare una lettera, ogni giorno rischiare. Per portare una lettera, non una, due al giorno. Promisi che Cristiano avrebbe scritto sempre. No, a Cristiano non lo dico, che glielo dico a fare. A Cristiano non lo dico, che glielo dico a fare. L'assalto è per oggi. Per oggi è l'assalto. Cristiano, vuoi scrivere a Rossana in una lettera il tuo addio? In questo foglio ho già fatto gli addii, lo vuoi? Ed eccoti il foglio, cos'è questo piccolo cerchio? È pianto quel piccolo cerchio, talvolta è il poeta che cede, cede al suo stesso incanto. Ho pianto scrivendo, ho pianto, ma poi che sarà? Ascolta Cristiano, è un segreto, se Rossana ti dice... Se lei ti parlasse della corrispondenza, insomma Cristiano, tu l'hai scritto più spesso di quanto non creda, perché io le scrivevo... Senza dirtelo affatto. Naturale, Cristiano. Anche da quando c'è il blocco, naturale, Cristiano. Ho scritto ogni giorno, due volte al giorno. Naturale, naturale anche questo. Che poi cosa ho fatto? Sfidare la morte. Naturale, Cristiano. Io innamorato. Non scherziamo, Cristiano. L'assalto è per oggi. Non scherziamo, Cristiano. Ecco Rossana, Cristiano, non fare. Ho scritto soltanto perché è naturale. Cristiano, non sai. Stai zitto, non sai. dalla sera del bacio sotto il balcone. Parlavi, parlavi, e che cos'è un bacio? E allora sto bacio cos'è? Dalla sera del bacio, con una voce nuova, l'anima tua mi si è svelata. E poi ogni tua lettera, dalla guerra, Cristiano. Io leggevo, tornavo e leggevo. Fu come sentire la voce, sempre sentire la voce. Leggevo, Cristiano, leggevo, leggevo, tornavo e leggevo. Adesso ti chiedo perdono per quella che fu frivolezza nell'amarti soltanto per la tua bellezza. Tu su te stesso l'hai vinta. L'anima tua cancella il tuo viso e io ti vorrei, anche se la bellezza si offuscasse del tutto. Io ti vorrei, Cristiano, ti vorrei anche se fossi brutto. Vabbè però, Cirano, non si fa così. Perché l'hai scritto? Avanti, di. Tu l'ami come un pazzo, perdutamente l'ami. Tu a lei da sempre l'ami, diglielo allora. Diglielo e basta. La lettera lasciala a me, lei mi amerebbe brutto. Voglio che scelga e le direi tutto. Non voglio portare in me stesso un rivale. Adesso mi batto, Cirano, mi batto. C'è l'assalto, Cirano, e per oggi parlale, Cirano. E che lei sciolga il dubbio. Avrà dubitato di ciò che gli ho detto. La verità gli ho detto. A Cristiano, la verità gli ho detto. Sì, che l'amerei anche brutto. Sentite, hanno sparato. Anche orribile, svisato. Hanno sparato. Niente può renderlo ai miei occhi grottesco. Quasi più l'amerei. Per le lettere, sì, leggevo, tornavo, leggevo. Sentite, hanno sparato. Adesso mi batto, Cirano, mi batto. Così vediamo chi merita i baci. Com'è che è diverso qua in guerra? Com'è secco l'odore del campo? Mi batto, Cirano, mi batto. Così vediamo chi merita i baci. Che strano dolore alla pancia. Che strano dolore, cos'è? Rossana, io adesso lo tolgo. Mi tolgo il dolore alla pancia. E vediamo chi merita i baci. Venite, correte, venite. Toglietemi questo dolore, non riesco! Toglietelo voi, venite, correte, venite! E vediamo chi merita i baci! Rossana, perché non mi senti? Rossana, Cirano ti ha detto! Hai visto, Cirano, mi batto! E vediamo chi merita i baci! Perché non mi senti, Rossana? Che piangi, Rossana, che piangi! È solo un dolore alla pancia! Rossana! Cristiano! Cristiano! Cristiano! 14 anni che venite a trovarmi oggi per la prima volta in ritardo. Avete ragione, devo l'eccezione a una certa visita inopportuna. L'avete rimandata? Sì, scusate, le ho detto, ma è sabato, giorno in cui ho per precetto di recarmi in un certo luogo e niente finora mi ha impedito di andarvi. Le foglie. Guardate come cadono piano e bene, malgrado il terrore di imputridire al suolo. Ciascuno vuole che nella caduta vi sia la grazia di un volo. Voi malinconico? Ma non Rosana, niente affatto. E lasciatele cadere le foglie. Ditemi. Che c'è di nuovo? Cirano, cosa che c'è? Che avete? Niente, non è niente, lasciatemi. Sono le mie ferite di guerra che ancora. Povero cugino, a ciascuno di noi la sua ferita, la mia ancora viva, mi sanguina qui, sotto la lettera dal foglio ingiallito, dove si vede ancora il pianto al sangue unito. La sua lettera. Forse non mi prometteste che un giorno l'avrei letta. A voi ora vorreste, oggi sì, posso. Sì, tenete. Leggete pure. Rossana, addio, la morte è imminente. Sarà credo per questa sera. Greve ho l'anima di un amore ancora non mai detto. E mai più queste pupille inebriate che maggior piacere non sanno. I vostri gesti a volo mai più non baceranno. Ora vi vorrei gridare, ma come la leggete? Io vi grido, addio, la leggete, mia cara, mia prediletta. La leggete con una voce, con un accento, che non per la prima volta. Stasera io sento. Fate voi. No, Rosana. Eravate voi. No, non io. Ma come non me ne accorsi? Dal modo in cui dicevate il mio nome non ero io. Sì, eravate voi. No, vi giuro, Rossana, voi le lettere, no. Quei cari e folli detti, voi, no. La voce di quella notte, voi, io vi giuro di no. Vostro il cuore, non mio. Voi mi amavate, voi, non l'altro, non io. Voi mi amavate, no. Mio caro amore, io non vi ho mai amata. Rossana, io. Tutto mancato. Ho fatto la suggeritore. Ricordate la sera in cui nell'ombra Cristiano vi parlò? È tutta in quella sera la mia vita. Ed intanto che in fondo io sono restato, altri a cogliere quel bacio è montato. Io tutto ho mancato. L'anima mia non vi lasciò un secondo, ed io sono e sarò, fino all'altro mondo, colui che sopra tutti vi amò senza misura, voi da così lontano, voi con gli occhi, negli occhi di Cristiano. Rossana, io tutto ho mancato. e Cyrano. Ma se è possibile, Cyrano, toi et tu l'umanité brute. Possibile che si deve morire così tante volte? E sempre non si va a capire niente? Cyrano? Ariane.